Allora, sì, stiamo sprecando internet, abbiamo parlato di blocchi della scrittura, abbiamo parlato dei problemi del linguaggio, e naturalmente io credo che nella classifica delle cose più difficili da fare quando si parla in pubblico è dopo Veragheno e dopo pranzo, cioè la combo delle due cose che sia un'impresa titanica. E con caso, però la frasi fa ganso. Ganso, nella quale spero di riconoscermi essendo di origine toscana. Ho mangiato. E sì, diciamo, in realtà il libro non nasce per farci una presentazione, però ho dovuto un po' adattarla per quelle che sono anche un po' le necessità di questa giornata. La prima cosa che mi viene da dire è che sì, stiamo sprecando internet anche nelle aziende, nel modo in cui lo usiamo nelle aziende, ma questo è il tema un po' di oggi, è il riflesso della melma mediatica complessiva in cui ci troviamo. Cioè io credo che i problemi delle aziende nell'usare internet dipendano all'80% dal fatto di avere come punto di riferimento l'industria dei media. Fantastico, abbiamo anche il radio microfono, adesso potrò fare la scena di quello che cammina, vagamente motivazionale. Oppure no? Sì, fantastico. Okay. Praticamente devo sempre tornare qua a fare le slide, quindi oh, che meraviglia, perfetto. Dicevo sì, i problemi delle aziende sono in larga misura dovuti al fatto che intorno tutto ciò che è media è drammaticamente balcanizzato negli ultimi anni, anche per via di questa transizione digitale che non è stata largamente capita a partire proprio dall'industria dei media. Per esempio, ecco, la prima domanda che vorrei pormi è, capite, chi fa come me, chi ha fatto e fa come me l'analista dell'industria, fa una cosa molto triste, cioè guarda proprio le caselle nei bilanci, nei fogli Excel, i costi, i ricavi, il lato economico, e quindi anche io avevo sviluppato negli ultimi anni un po' questo riflesso condizionato per cui alla fine tutti mi dicono sì, va bene, ma qual è il modello di business, oppure come si ripaga questa attività, come si fanno i soldi, come, scusa, qual è il ROI, qual è il ROI, esatto, e quindi qual è la RAL, e mi rendevo conto che stavo perdendo di vista il quadro complessivo, cioè la creazione e la circolazione delle idee, che è alla base dell'idea di media, è qualcosa che sì, a un certo punto è diventato un modo per fare soldi, ma non è una condizione data, è un fenomeno storico, successivo, cioè a un certo punto è diventata un'industria, ma prima esisteva una cosa che si chiamava l'ecosistema della comunicazione. Io ho preso questo fotogramma tratto dall'inizio del 2001, Odissea allo spazio, lo ricorderete, che più o meno ci fa vedere un uomo a metà strada tra l'uomo e l'ovinide. Ipoteticamente l'alieno osserva da lontano cosa succede sulla Terra e si rende conto che c'è un salto evolutivo, sta diventando un uomo. Perché? Perché comincia a utilizzare le idee come una leva di potere. Aveva anche prima delle idee, ce l'aveva anche lo scimmione, per carità. Però il fatto di sapere che puoi sopraffare un'altra tribù perché hai avuto l'idea di poter usare l'osso di una carcassa come un'arma e quindi una tecnologia è considerato nel film, diciamo in realtà nel racconto di Arthur Clarke, Sentinella dello Spazio, cui poi il film è ispirato, è considerato un salto di specie, no? E se proviamo, sembra che la sto prendendo molto lontana, se proviamo a metterlo nel contesto, diciamo che l'idea di usare la conoscenza, cioè sapere che quella è un'arma, no? Come una leva di potere, fa parte già dell'ecosistema della comunicazione senza che sia ancora un'industria. È una leva di potere, ma non abilita un guadagno, un profitto, una catena di portere industriale, diciamo. 300.000 anni fa si poteva dire che l'accesso alla conoscenza viene usata come leva di potere immediata e comincia ad essere invece mediata quando si industrializza, per esempio, il processo del tramandare la conoscenza ai posteri, no? Come si faceva già nel XIV e XV secolo, mettendo i monaci benedettini al lavoro a copiare, no? Perché era l'unico modo per copiare. Quindi si crea un'economia della comunicazione basata sul privilegio. Chi fa parte di questo mondo, la Chiesa l'aveva vista molto da lontano, no? Chi ha accesso alla conoscenza conserva in qualche modo il potere. Ecco, vedete che questo pallocchio, diciamo, giallo, no? Che io comincio a chiamare qui accesso alla conoscenza come leva di potere, a un certo punto diventa editoria. Perché? Perché a un certo punto qualcuno inventa un'altra tecnologia, una stampa a caratteri mobili, no? Appunto nel 1543, ma è una data abbastanza contestata, e crea proprio a quel punto un'economia dell'accesso. Cioè, siccome l'accesso alla conoscenza si moltiplica in modo esponenziale, tenete presente che il salto successivo di questa stessa portata ce l'abbiamo con internet, cioè per poter dire che c'è stato un momento di ulteriore allargamento dell'accesso alla conoscenza paragonabile a quello che accade con la stampa a caratteri mobili, dobbiamo aspettare internet, quindi diciamo 500, o meno di 500 anni più avanti. E quindi all'interno dell'ecosistema della comunicazione si crea una cosa che ancora non viene definita industria, ma si può legittimamente chiamare editoria. Cioè ci sono delle persone che organizzano l'allargamento dell'accesso alla conoscenza attraverso una tecnologia. Di industria culturale si comincia a parlare in modo sensato, direi, con la dialettica dell'illuminismo del 47, che è un famoso saggio di due filosofi della scuola di Francoforte, Adorno e Horkheimer, che tra l'altro è bellissimo perché gli americani li salvano, questi due, tra persecuzioni naziste, li trovano subito una cattedra in America, pensando poi che loro siano lì in ginocchio a ringraziare, e invece la cosa bellissima è che Adorno e Horkheimer dicono ai professori americani: attenzione, perché voi adesso con la comunicazione state facendo la prosecuzione del nazismo con altri mezzi, quindi non esattamente una forma di riconoscenza così come loro se l'aspettavano. Però ecco, sì, è interessante perché Adorno e Horkheimer dicono: voi qui negli Stati Uniti state mettendo le basi per fare della cultura, cioè di una cosa alta, un'industria di massa. Cioè quando i contenuti diventano un oggetto di massa si può cominciare a parlare di industria culturale. Nel frattempo sono successe altre cose dal punto di vista tecnologico: è apparsa prima la radio, poi il cinema, i giornali già esistevano da un po' di tempo. Di industria culturale, che vedete occupa uno spazio a scapito, no, di un'idea di comunicazione ancora non legata al profitto, che però è il punto di partenza. Noi invece, mentalmente e anche in azienda, ragioniamo con le categorie dell'industria e non dobbiamo commettere questo errore, anche perché poco dopo l'industria culturale diventa industria dei media. Si parlava anche con Stefania prima di economia dell'attenzione. Sicuramente, se prima il contenuto industriale era ripagato in relazione alla sua qualità, cioè se il contenuto era buono, questo era un vantaggio competitivo nell'economia dei contenuti, a un certo punto invece ciò che fa la differenza non è più la qualità del contenuto, ma la capacità del contenuto di far piombare i nostri occhi all'interno di un riquadro dove vendere, per esempio, spazi pubblicitari. No? Quindi, in questa seconda metà del Novecento, progressivamente, l'economia del contenuto diventa un'economia dell'attenzione. Resiste ancora, in qualche modo, intorno a questa idea di industria, l'idea della comunicazione che serve anche a qualcos'altro, che non risponda alle regole del profitto. A un certo punto l'industria dei media occupa praticamente tutto l'ecosistema, che non si chiama più nemmeno come ecosistema della comunicazione, si chiama ecosistema dei media, perché siamo diventati noi tutti media, non c'è più nulla di immediato, tutti comunichiamo usando vari tipi di tecnologie. E soprattutto si passa dall'economia dell'attenzione a un'evoluzione ancora più inquietante: si rivendono i nostri dati, non più, diciamo, la nostra disponibilità a far cadere gli occhi all'interno di un quadro. Però ecco, vedete, siccome ci siamo arrivati in modo graduale e silenzioso, quando parliamo per esempio della ecologia dell'informazione, non dobbiamo mai dimenticare che il problema è che oggi pensiamo che le regole del profitto applicate alla comunicazione valgano su tutto. Tutto quello che, cioè, le regole che noi usiamo per una comunicazione funzionante sono le regole del profitto, non sono le regole che vanno a nostro vantaggio. Verrebbe da dire sono le regole del capitale, ma forse un po' forte, non lo so. Rimaniamo semplicemente sull'idea del profitto. Ora, è affascinante perché tecnologicamente internet ci dava la possibilità di frenare questa deriva, di fermarla. E questo perché le basi di internet, cioè quando nasce internet, non nasce con l'idea di creare un'industria, non nasce per l'idea di un imprenditore. Mentre possiamo dire, per esempio, che la stampa a caratteri mobili era già un'idea imprenditoriale, creare una rete delle reti non risponde a un'esigenza di un editore, anzi, risponde all'esigenza dei militari di garantire la sopravvivenza della rete a un ipotetico attacco nucleare. Quindi nasce ARPANET nel 72, su cui poi si sviluppa internet, e nasce con l'idea che ogni rete deve non solo resistere a un attacco nucleare, ma per esempio se viene annientata la costa ovest, i componenti possono già andare sulla costa est, e quindi centri di comando e di controllo saranno in grado di continuare a funzionare. Questa idea di rete paritaria, perché ovviamente per funzionare deve essere paritaria e simmetrica, è un incubo per il concetto di editoria, per il concetto di imprenditoria editoriale. Nessun imprenditore vorrebbe una rete così. Perché? Perché l'editore ha sempre giocato sul suo vantaggio competitivo, sui suoi asset non duplicabili. Qui non c'è nulla di duplicabile. Se la rete è globale, paritaria e simmetrica, non c'è una vera opportunità imprenditoriale in questo concetto. A peggiorare le cose per gli ipotetici imprenditori digitali arriva l'invenzione di un protocollo, che è quello che fa oggi funzionare internet, che si chiama TCP/IP. Non entro nei tecnicismi, però viene concepito da questi due ingegneri, Vinton Cerf, che tra l'altro adesso lavora per Google, è bellissimo, e Bob Gunn, che inventano un protocollo molto semplice e che si impone come standard di fatto proprio perché i militari hanno bisogno di questo e non hanno bisogno invece di quello di cui si sta discutendo a livello di standard industriale. Il TCP/IP model batte di fatto il modello legale che si voleva costruire qua, un modello molto più complesso e che soprattutto non prevede un compromesso centrale su una rete globale internet. E proprio per questo motivo oggi abbiamo una rete stranamente ancora tecnicamente molto molto diversa. Proprio per questo motivo a un certo punto Tim Berners-Lee riesce anche a dargli un'interfaccia con i link, no? Il link proprio metaforicamente gli trasmette l'idea di una porta che mi fa entrare in un altro posto che è esattamente la stessa priorità e risponde alle stesse regole. Le pagine erano tutte collegate tra di loro. Oggi se aprite il sito web di un qualsiasi giornale non trovate quasi mai link alle fonti dirette, forse con l'eccezione del Post, però i quotidiani cartacei, la regola sacra è, per carità, siamo noi a darvi dati, la pagina deve accontentarvi al 100%, non dovete andare in altri luoghi. E invece il web nasceva così. Se non fosse nata così la rete, avremmo una cosa che si chiama, oggi nel 2011, facendo una specie di giochino prospettico, oggi è il 2024, ma nel frattempo la rete si sarebbe sviluppata in un altro modo. Tante reti che non parlano le une con le altre. Avremmo avuto la rete di Berlusconi, la rete di Murdoch, la rete di Ted Turner e così via. E quindi, per esempio, se tu sei, che so, Christopher Nolan, i tuoi film devono avere un contratto in esclusiva con una di queste reti. E quindi tu devi abbonarti a tutta quella rete, magari quando stai su quella rete devi pagare al minuto, come si pagava il Minitel, il Videotel, CompuServe, America Online, cioè i primi tentativi di fare reti separate erano pagate al minuto, come le telefonate a gettone. Oggi invece abbiamo una rete che non è pagata al minuto, ma soprattutto una rete dove tutto è in contatto con tutto, anche se a livello applicativo e di piattaforma si sta cercando di rialzare, no? Questi giardini murati che separano la rete, però ancora tecnicamente la rete è come l'aveva concepita Tim Berners-Lee. Una grande opportunità, quindi, vedete, cioè, dietro non c'è una logica, nella rete che abbiamo, nonostante tutto, dietro ancora non c'è una logica di profitto come unica regola funzionale. Quindi, diciamo, come reagisce l'industria a tutto questo? Come affronta un sistema economico basato sulla scarsità il problema di una tecnologia basata sulla paritarietà e sulla condivisione universale? Il primo grande spauracchio, saltiamo questa che non serve, il primo grande spauracchio è che le persone possono rispondere. noi abbiamo uno strumento dal quale non soltanto fruiamo, qui è il computer, su cui c'è Machine, no? Che è un personaggio molto popolare su internet, questo gatto stilizzato che sale sulla tastiera. Cosa succede quando il vostro gatto sale sulla tastiera? Lo schermo si riempie di scritte senza senso, quelle scritte sono l'unico problema che oggi i nostri contenuti potrebbero creare un algoritmo, perché l'algoritmo non è in grado di processarli e dargli un significato. Noi abbiamo un grande potere in mano, ma non lo stiamo usando, perché questo canale di ritorno, che è l'unico vero fattore dirompente della transizione digitale, non lo sfruttiamo a nostro vantaggio. Non esiste una buzzword che definisce il canale di ritorno, è un tema di cui non si parla mai, cioè, mentre per esempio altre buzzword della transizione digitale hanno avuto i loro hype in passato, no? Il web semantico, l'internet of things, la blockchain, il big data, il web 2.0, ma il canale di ritorno, cioè questo potere che è l'unico vero fattore di rompente, non ha mai avuto un nome giornalisticamente spendibile. Riflettiamoci. Questo cambiamento viene visto dall'industria con terrore. Perché? Perché a un certo punto non è solo l'industria a poterci inondare di contenuti. I contenuti possono tornare dal basso. Questa era una paura completamente infondata. Sono passati pochi anni per capire che non avremmo dato fastidio all'industria con i nostri contenuti. Ma nel frattempo quello che è stato deciso di fare a livello imprenditoriale, perché chiaramente è stato rallentare la transizione in modo da sperare di poterla governare. Per rallentare la transizione c'è un modo semplicissimo: si svaluta il canale di ritorno consapevole, cioè i contenuti che consapevolmente vogliamo pubblicare su internet sono svalutati, e invece si trae profitto dal canale di ritorno inconsapevole, che sono i dati che inconsapevolmente noi lasciamo, tutte le tracce che lasciamo su internet. Il business si costruisce su questo. Quello che non era stato previsto e che invece doveva spaventare molto di più, non so se funziona ancora, si è scaricato. Ma vabbè, non posso andare avanti con questo. Mentre provo a risolvere il problema, questo veramente mi dà una grande importanza, perché questo ecco, cioè sempre sta parlando Negroponte, veramente. Le conseguenze non previste, che invece dovevano preoccupare molto di più l'industria, non erano il fatto che noi possiamo produrre i nostri, ma erano il fatto che noi avremmo potuto decidere che cosa è rilevante in questo universo di contenuti che troviamo su. Tecnicamente si parla di delega della funzione editoriale. Noi ci prendiamo in capo un pezzo del lavoro che prima svolgevano gli editori. Decidiamo noi che cosa è rilevante per il mondo, almeno in questo. Il risultato è che tanti contenuti prodotti da Hollywood, dalle major, dai broadcaster, eccetera, diventano cose con cui noi decidiamo di fare quello che vogliamo. No, siamo nell'era del remix, l'era dei meme. Il più famoso forse è quello in alto a sinistra, no? Tratto dal Signore degli Anelli, no? Ma anche quello di Jake Wilder, abbastanza famoso, li conoscerete. Nessuna major, nessun broadcaster ha mai tirato dentro un euro, no? Dalla ricircolazione di questi contenuti, che però hanno allungato il ciclo di vita dei contenuti, quindi li hanno comunque resi sempre più popolari senza il loro controllo. È un fenomeno che si chiama transmedia storytelling. Le community decidono di fare con i media che arrivano dall'alto di creare dei nuovi circoli di rilevanza. Forse il più famoso di tutti è un sito che si chiama Lostopedia. A un certo punto finisce la serie Lost e le persone continuano a scriverla per conto proprio sui canali di internet. Allora, quando a un certo punto l'industria si rende conto che il problema è questo, le persone sono in grado di capire che cosa è rilevante per loro, cambiano di nuovo le regole del gioco, no? Con le piattaforme che conosciamo, le piattaforme chiuse, come Facebook, dove ti devi comunque autenticare, l'algoritmo stabilisce che cosa è rilevante per te, e la timeline ti fa vedere che cosa è rilevante per te a vantaggio proprio, creando quindi dei flussi di falsa rilevanza. Ciò che vi appare in alto in tutte le timeline dei luoghi che frequentate su internet servono per farvi liberare la maggiore quantità possibile di dati da rivendere agli inserzionisti. Quindi non è mai nel vostro interesse, è sempre nell'interesse della piattaforma. Falsa rilevanza dall'alto, dati reali inconsapevoli nostri dal basso che vanno ad alimentare il processo economico. Parlavamo prima del problema della dicotomia tra scarsità e condivisione. Questa non è una regola solo dell'editoria, è una regola proprio del marketing. Non sapete che l'antico marketing, quello degli anni Ottanta, ci dice che bisogna creare dei bisogni fittizi delle persone e poi assecondarli con un prodotto già esistente. Abbiamo ancora altri 10 minuti di autonomia. No, ce ne ho un altro. Sono tutti dai 10 minuti. La famosa città dei 10 minuti. Comprate su tempo. Vedete, scarsità, no? Cioè io adesso so che in questi 10 minuti dovrei usare molto bene, perché la risorsa per arrivare a voi non è durata scarsa. Allora, internet non si fonda sulla scarsità. È una rete che nasce aperta, fuori dalle grandi piattaforme teoricamente potremmo ancora fare quello che vogliamo, ma non ci andiamo fuori dalle piattaforme. Perché? Perché tutti i nostri amici sono dentro le piattaforme, siccome il contenuto ha una dimensione sociale per noi, abbiamo bisogno di qualcosa di cui discutere. Per esempio il Festival di Sanremo, siamo sicuri che più o meno tutti lo seguono e quindi, okay, e quindi funziona. Questo le aziende ha un primo effetto devastante, no? Questa dicotomia tra scarsità e condivisione. E cioè, per esempio, l'archivio aziendale, l'archivio digitale. Che cosa succede all'azienda? Venendo qua, parlando con Osvaldo, uno dei nostri meme è internet ci dà l'opportunità di tornare a insegnare alle aziende a scrivere, ma le aziende in realtà continuano a parlare. Perché? Perché c'è il solito problema che ciò che scriviamo rimane, e ciò che rimane può essere imbarazzante nella vita di un'azienda. E quindi archivio in generale è una delle cose che ha sofferto di più con internet. Internet nasce come un archivio naturale, ma l'azienda risponde a una logica culturale completamente diversa, cioè ciò che va dimenticato va dimenticato. E quindi noi distinguiamo vari tipi di archivi, c'è una pletora diciamo molto diversificata di tipologie diverse di archivio, dove si va diciamo dalla soluzione più conservativa, cioè gli archivi non accessibili, non digitalizzati, non condivisi in rete, via via fino all'optimum che sarebbe l'archivio accessibile, digitalizzato e condiviso in rete. E perché ancora tante aziende, istituzioni, ma anche organizzazioni culturali dovrebbero davvero fare leva sull'archivio, hanno tanta ritrosia? Perché sono nel mondo della scarsità, ma soprattutto subiscono una spiegazione culturale di questo horror veteris, e cioè l'industria ci ha abituato che tutto ciò che è vecchio non serve. Dobbiamo vivere un eterno presente. Ogni tecnologia che era stata inventata prima, il giornale, la radio e poi le prime televisioni, dà valore a quello che stiamo fruendo nel qui e ora. Già il videoregistratore ha creato dei grossi problemi, la Disney ha fatto una guerra spaventosa e ha accettato di tutti gli standard, alla fine ha accettato quello che funzionava peggio, il VHS, perché se tu vedi Biancaneve e Sette Nani in VHS continuerai a desiderare di vederlo al cinema. Non hanno vinto gli standard migliori, ha vinto quello che creava meno danni. Okay. E siccome le regole di una buona comunicazione purtroppo ce le ha insegnate questa industria, un'azienda pensa di dover stare in un eterno presente. C'è poi una spiegazione sociologica: anche quando promuoviamo qualcosa, un nuovo prodotto, un nuovo servizio, è più desiderabile. Quindi questa è un'ulteriore ragione per cui ciò che è vecchio automaticamente non ci serve. E poi c'è quella che chiamiamo la sindrome di Bartali. Ciò che è nuovo è comunque migliore, perché ti identifica come il soggetto che cambia, è quello che è riuscito a fare a un certo punto, per esempio Renzi, no? Renzi lo abbiamo votato in tanti perché era il rottamatore di un passato che non ci piaceva, e quindi automaticamente non poteva che essere meglio. Era come se dicesse: è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Poi c'è un'altra sindrome tipica delle aziende, che è la sindrome di Beria. Beria era il ministro della propaganda di Stalin, che quando un personaggio del politburo andava in disgrazia lo faceva cancellare anche dalle foto ufficiali. Infatti, in quel buco che vedete tra Stalin e Malenkov, invece il pelato a sinistra è Beria, c'era Lev Trotsky, che infatti nel frattempo era stato ucciso a Città del Messico nel 48, poco prima che morisse anche Stalin. Ecco, diciamo che se le aziende ragionassero come ragiona il New York Times, una pagina come questa, che oggi si può trovare sul sito del New York Times, che è una pagina d'archivio, no? Una vittoria di McEnroe su Borg all'Open degli Stati Uniti, questa sarebbe considerata un blasfema su un sito. Cioè, se su un sito rimanesse una notizia del 14 settembre 1981, qualcuno si alzerebbe e dire: ma come mai sul sito ci sono ancora queste cose vecchie che non servono a nulla? Questo perché l'azienda pensa che una persona non sia in grado di contestualizzare temporalmente ciò che viene pubblicato. Qui c'è una data, ma siccome si pensa che tutta la comunicazione funziona solo se è come se parlassi con un bambino di 3 anni, frase di Silvio Berlusconi, forse qualcuno di voi se la ricorderà, Silvio Berlusconi è l'altro campione di questa industria, okay, industria dei media, siccome è quella la regola dell'industria, allora una pagina come questa su un sito non ha senso. Quindi questa è la spiegazione della inadeguatezza. Se avanza una vecchia pagina sul sito è perché voi siete così poco professionali da non averla cancellata. E questa è l'unica spiegazione. E poi c'è la spiegazione dell'incoerenza. Quello che rimane può essere imbarazzante. Se per esempio rimane l'articolo della Stampa in cui Renzi decide di dichiara che se perde il referendum cambia mestiere, poi chiaramente nel 2023 sta ancora già in Senato, si crea subito, no, una specie di contraddizione in tempo. Allora, in tutto questo, cioè, mentre l'industria, cioè chi fa profitto, lotta per tenerci sempre nell'eterno presente tutto ciò che invece dà valore al passato è considerato non professionale, fuori dall'industria ci sono movimenti per la liberazione degli archivi. Cioè, dentro internet, o meglio, dentro la parte rimasta aperta di internet, ci sono soggetti che lavorano per fare delle copie anche dei siti spariti, dei siti rotti. Non so se lo sapete, ma più del 70% dei link che stanno su internet oggi, se fate clic sopra, danno errore 404. Questo significa che quella pagina non è più online, quindi la promessa originaria del grande archivio di internet non è stata mantenuta. Quando tu pubblichi qualcosa, quando pubblicavi qualcosa su internet nei primi anni 2000, ragionevolmente pensavi che sarebbe rimasta per sempre. Oggi invece diamo per scontato che il sito, dopo qualche anno, sarà uno scheletro. E questo è un problema, perché se qualcuno ti ha linkato, per esempio ha scritto una tesi di laurea, banalmente, una tesi laurea c'ha un ciclo di vita molto lungo, te la puoi rigiocare molto a lungo. Quasi tutte le tesi di laurea pubblicano link, contengono link rotti. Wikipedia lavora tutti i giorni con Internet Archive e con The Wayback Machine per creare delle copie funzionanti dei link che nel frattempo sono rimasti rotti, in modo che quando andate su una pagina di Wikipedia i link funzionino ancora, i link che stanno nelle note in fondo, no? A ogni parte. E questa sarebbe l'enciclopedia che sta distruggendo i nostri giovani. Ora, quanto sia doloroso questo gap culturale che abbiamo e questo scarso rispetto che abbiamo per il passato e per i nostri archivi non è uguale per tutti i paesi. Diciamo che in Lituania sarebbe grave, ma non tantissimo. Per l'Italia è veramente grave, perché noi abbiamo una quantità di archivi spaventosa. Questo perché siamo il paese che ha più cultura, e non solo per via della classifica dell'UNESCO, per cui l'Italia ha 59 siti UNESCO e 57 c'è la Cina, che ha miliardi di persone. Non è solo non parliamo solo dei blockbuster della cultura, dei Colosseo, dei Musei Vaticani, cioè, no, stiamo parlando anche di tutta la diversità, no? Come diceva anche Vera oggi, che l'Italia è capace di raccontare al mondo, ed è quella che ci pone in testa alla classifica dell'influenza culturale nel mondo. È per quello che, se lo facciamo noi di buttare un archivio, è un delitto, perché è un delitto non solo per noi, è un delitto anche per il mondo. Quando parliamo del famoso petrolio, no? Della cultura che dovrebbe essere il petrolio per la sopravvivenza della nostra economia e per evitare che diventiamo una specie di una parte per i cinesi, okay. Quando parliamo di questo petrolio non stiamo parlando delle rovine, delle vestigia della sovrintendenza, cioè della cosa che tocchi, stiamo parlando della somma dei significati universali e del senso individuale che il mondo attribuisce a quei simboli. Perché se noi continuiamo a parlare soltanto, per esempio, del fatto che a Roma ogni anno vengono 20 milioni di turisti, ok? L'anno prossimo ovviamente ancora di più, perché c'è il Giubileo. Se ci sediamo su questo, ridaremo alle persone l'eterno presente, l'eterna cartolina che loro si aspettano. Gli daremo il Colosseo che vogliono vedere, gli daremo i Musei Capitolini che vogliono vedere, gli daremo la Piazza San Pietro che vogliono vedere, vabbè, quello è un altro stato, non importa. Quando in realtà, nel frattempo, nel resto del mondo non si lavora più su questi significati universali omologati da cartolina, si lavora sul senso individuale. Non so se avete visto, purtroppo non ce l'ho pronto qua, lo spot della città di Vilnius. Sì. E non a caso ho citato la Lituania, no? Loro stanno costruendo da zero una identità della città che Roma non può permettersi, neanche Firenze, neanche Venezia possono permettersi questo, perché noi siamo soverchiati dai significati universali delle cartoline che raccontiamo al mondo. Loro possono raccontare da zero una città nuova, diversa da quelle che sono le nostre aspettative. Guardatelo, se lo trovate su YouTube, è molto divertente lo spot della città di Vilnius. Quindi, tornando a scarsità e condivisione, qualcuno mi dovrà pur tenere il tempo, perché insomma ci sono storie del mio passato di questo, mi hanno dovuto portare via, ma e anche crisi epilettiche tra il pubblico a un certo punto. Allora, tecnologia e scarsità, solo pochi monaci erano in grado di copiare, perché erano abili scrittori e lettori, perché anche il saper leggere non era proprio banale, no? Solo pochi monaci garantivano il tramandarsi della conoscenza nel XIV e XV secolo. Quando arriva una grande tecnologia, per esempio il satellite, no? Il primo Telstar che viene lanciato nel 63, c'è subito qualcuno che dice, vabbè, che facciamo? Trasmettiamo l'incontro di Cox in 8 cinema. Cioè, non c'è l'idea di dire, ok, il satellite irradia il mondo, tu doti tutti di una parabola e tutti possono vedere. No. Nel frattempo l'industria del cinema si associa con l'idea di scarsità del possesso della tecnologia. Mentre molto spesso la tecnologia porta con sé invece proprio il germe non della scarsità ma della condivisione. Gutenberg, ARPANET, TCP/IP, ma anche quando nell'85 il buon Rupert Murdoch, che è considerato Satana nell'industria dei media, però è il primo a dire tutti possono avere una parabola, tanto io poi glielo farò pagare l'abbonamento. Cioè, questo era il ragionamento di Rupert Murdoch, che comincia prima in Asia, poi con British Sky, con Cassica nell'88, e poi, come sapete, oggi Sky è una cosa molto più grossa, per cui praticamente ciascuno di noi è convinto che Stefano Accorsi sia felice di andare a vedere il nuovo televisore di Laura Pausini. La scarsità attraverso la tecnologia ha dei problemi, perché i tre profili della scarsità che abilitano il modello economico, per esempio il profilo dell'esclusiva, solo tu puoi vederlo perché paghi me che sono l'unico a potertelo mostrare, oppure il gatekeeping, lo vedete perché solo io ho l'infrastruttura necessaria per diffonderlo al pubblico, oppure l'intermediazione, il curatore, l'operatore culturale, no? Lo vedete perché io l'ho reso rilevante, io ho tanta autorevolezza da poter scrivere un riquadro, quindi so che quello che c'è in quel riquadro ti deve interessare. Questi tre profili si poggiano su elementi molto fragili, per esempio i diritti. I diritti per trasmettere qualcosa in televisione è qualcosa che viene ridiscusso da internet continuamente. Il capitale, ma la televisione ha retto sul fatto che c'erano solo Galliani e Rai Way che potevano mettere dei tralicci sulle colline. A un certo punto c'era solo Eutelsat o Astra che potevano lanciare i satelliti direct to home, però la stessa TV a un certo punto la poteva trasmettere chiunque grazie a internet. Quindi quando è diventata una commodity, anche questo elemento è andato in crisi, quindi anche questo elemento della scarsità soffre. E poi la fiducia, l'intermediatore culturale per tanto tempo è stato un soggetto straordinariamente importante. Se tu a Roma nel 2017 vedi una mostra su Escher, nel 2018 un'altra mostra su Escher, nel 2019 un'altra mostra su Escher, dietro non c'è qualcuno che umanisticamente giunge alla conclusione che per il mondo è importante vedere Escher. Dietro c'è una persona che ragiona col profilo del marketing. C'era la coda l'anno scorso per Escher e quest'anno vi cuccate Escher, oppure Raffaello, oppure il Caravaggio, e sarete disposti a pagare, anche se Caravaggio è gratis a Santa Maria del Popolo. Quello è marketing, non è costruzione di autorevolezza sulla capacità di capire in un certo momento storico di che cosa le persone hanno bisogno. Questa è industria dei media, non è ecosistema della comunicazione. Ma io sono anche disposto ad abilitare un'industria basata sulla fiducia, solo che a forza di essere tutti venditori piazzisti di arte, anche la credibilità, l'autorevolezza di quella categoria professionale, l'operatore culturale, sta andando a farsi benedire. La crisi di questi asset, dei modelli fondati sulla scarsità, è ancora più evidente in rete. Perché in rete il solo tu puoi vederlo perché paghi me, eccetera, eccetera, basta essere abbastanza, diciamo così, conoscenti di come funziona internet, che a un certo punto ti stufi del fatto di dover fare l'abbonamento ad Amazon per poter vedere tutti i film di Wenders. Dici, perché devo avere l'abbonamento ad Amazon che ho già l'abbonamento a Netflix? E dove vai? Su The Pirate Bay. Il gatekeeping lo vedete perché solo io ho una piattaforma in grado di arrivare al pubblico. Questa è la regola di Facebook, lo dicevamo prima, le persone vanno dove ci sono tutti gli altri. L'intermediazione: se tutti gli anni tu semplicemente dai al pubblico quello che ti aspetti che il pubblico vorrà, per esempio la mostra di Escher, allora quel mestiere lo fa meglio un algoritmo. Tu stai spostando il piano della tua professionalità di curatore, di operatore culturale, là dove una macchina ti batterà sempre. E poi, dietro tutto questo, e qui i miei ragazzi dell'Istituto Luce, a cui faccio un corso su queste cose, strabuzzano sempre gli occhi, c'è il problema dell'autorialità. Alcuni di quelli sono sceneggiatori, registi, no? Ma che fine fa l'autore, no? Per esempio con l'intelligenza artificiale, arriviamoci per gradi, ma in fondo alla fine, anche quando la tecnologia era tozzo di carbone, l'ambra, eccetera, c'era una persona che ci metteva un input per poi poter fare, anche nel 18.000 avanti Cristo, il bisonte nelle cave di Altamira. Quindi input usa la tecnologia, lavoro sull'output e ho un'opera d'arte che qualifica me come autore, cioè come unica persona che avrebbe potuto fare quello, no? Il concetto di originalità. Arriva Benjamin e dice: ah, è stata inventata la fotografia, che succede all'arte nell'epoca della sua riconoscibilità? A un certo punto anche il patent office americano dice: no, anche il fotografo ha il suo diritto d'autore, che per esempio Nadar, se vuole fare Sarah Bernhardt, fa quella foto, provaci tu a fare quella foto di Sarah Bernhardt, solo perché io conosco la tecnologia, le luci, ma anche perché c'è la mia personalità dietro. Inventano l'immagine in movimento, stessa cosa, non è semplicemente la capacità di riprendere l'arrivo del treno, quello serviva per dimostrare la tecnologia, ma poi dopo è chiaro che se il filmino lo fa mio cognato al battesimo di suo figlio è un conto, se dai questi strumenti a Christopher Nolan è un altro conto. che succede con l'intelligenza artificiale. E siamo sempre lì. C'è un bellissimo libro che è uscito da poco di Simone Albrandi, ve lo consiglio, si chiama L'autore artificiale. C'è sempre un input nella creazione del prompt che nasce con l'idea di ottenere un risultato e poi c'è un lavoro sul risultato. La tutela del diritto d'autore è su questa parte di lavoro. Le macchine fanno ancora quello che gli diciamo noi, non sono in grado di creare. Però c'è un problema. Oggi nell'elaborare l'input noi comunque ci prendiamo ciò che la rete seleziona per noi, per i suoi obiettivi di business. Usiamo la rete per usare le piattaforme di intelligenza artificiale. E quindi noi lasciamo il big data, cioè la moltitudine, la condivisione, le caratteristiche originali di internet, le lasciamo alle macchine. Noi ragioniamo ancora con la scarsità autoriale, con l'idea di autore che solo lui può, perché solo lui ha le competenze, ma i big data li lasciamo alle macchine. Allora, se riprendiamo noi i big data, se superiamo i problemi culturali che abbiamo con i big data, siamo capaci di superare il problema, per esempio, del diritto d'autore, così, che io non voglio superare così a pie pari, dico semplicemente che così com'è ci fa perdere la battaglia con le macchine. Se lasciamo la moltitudine alle persone, abbiamo ancora la possibilità di remixare continuamente ciò che la rete ci dà. Se lasciamo questo compito alle macchine e ci imprigioniamo nella nostra idea di autori originali, siamo fregati. E infine, però voglio dire anche quanto tempo mi è rimasto. 10 minuti. 10 minuti. Che succede agli intermediatori? Beh, dire che sono in crisi gli intermediatori, visto che tutta l'industria si basa ancora sul fatto che ci sono tanti soggetti che di volta in volta possono stabilire cose rilevanti per noi, sarebbe facile, no? Prendere, non so, un giornale della mazzetta fascia trash, come lo chiama Alessandro Giulioli, prendere, che so, Libero o La Verità, no? È chiaro che loro scrivono un riquadro sapendo che il lettore tipico di quel giornale avrà bisogno di quel frame, no? È diverso quando invece ci rendiamo conto che l'intermediatore ha dei seri problemi anche se si chiama New York Times. Quando per esempio l'inchiesta sui fatti del 7 ottobre, fatta benissimo, che non racconta certe notizie false, racconta notizie vere e terribili, l'attacco di Hamas, viene pubblicata il 28 dicembre, mentre nel frattempo sta succedendo qualcos'altro. Ma siamo sicuri che il 28 dicembre fosse rilevante sapere nomi, cognomi, storie, video, immagini di tutte quelle disgraziatissime vittime, quando nel frattempo c'erano dei numeri che non avevano un nome, non avevano un volto, non avevano un'intervista, non avevano niente. Dall'altra parte, allora, l'intermediatore culturale classico, cioè quello che per esempio fa il divulgatore, bravissimo come Alessandro Baricco, è disperato perché pensa: adesso se tutto questo mestiere lo fa una macchina, che è tra l'altro una macchina desiderabile, un giocattolo. No? Se avete letto The Game di Baricco, vi descrive il problema. Prima quel mestiere era un mestiere di chi aveva una profonda cultura umanistica, adesso invece quel mestiere è di un ingegnere bianco che probabilmente ha fatto il 68 e che in California a freddo crea un giocattolo, e quel giocattolo a stabilire cosa è rilevante per me. Ancora peggio direi Aldo Cazzullo, che riesce a scrivere un vero bestseller perché vende tantissimo, perché entrando da Mondadori, tutte le Mondadori d'Italia trovavano una piramide di questo libro nei giorni prima di Natale. Metti via quel cellulare. Il Natale del 2013 lo ricorderemo perché tutti i nipoti d'Italia hanno ricevuto dal nonno questo libro. Il problema del nonno è che i due anni precedenti, quando si scartavano i regali, i nipoti non guardavano i regali ma stavano sul cellulare. Questa è la grande operazione culturale di questo libro. Poi ci sono quelli che proprio di mestiere capiscono che questo è un filone d'oro, come Andrew Kim, e quindi internet come la racconti, come la tecnologia che ha restaurato il culto del dilettante, oppure the internet is not the answer, ma perché qualcuno ha sempre detto, invece ha dato per scontato che internet ci dà tutte le risposte, assolutamente no, how to fix the future, eccetera eccetera eccetera. Allora, c'è stata un'epoca felice in cui la rilevanza, cioè chi faceva questo riquadro effettivamente faceva leva sulla sua professionalità e sulla sua comprensione su cosa fosse importante, per esempio, per la società democratica. Quando c'è stata l'inchiesta del Water, che ricorderete forse questo film con Dustin Hoffman e Robert Redford, tutti gli uomini presidenti, il Washington Post guadagnò quote di mercato sul New York Times perché aveva in esclusiva, quindi col profilo della scarsità, questa inchiesta su cui continuava a investire oggi nell'eterno presente dei quotidiani di oggi. Questa inchiesta sarebbe durata le 8 ore per avere un titolo sulla home page del quotidiano, poi sarebbe stata scavalcata dai Ferragnez e poi dall'ennesima volta in cui sta per scoprire la terza guerra mondiale. La prima volta è stato quando hanno ammazzato su dei mani, no? Due giorni scoppia la terza guerra mondiale. Poi, se non è scoppiato, non è che qualcuno manda la lettera al direttore e dice: mi scusi, ma non doveva scoppiare la terza guerra mondiale? Sì, cioè, questo rischio c'è, però il motivo per cui l'hai scritto era perché dovevi fare quel titolo e far piombare gli occhi sul colonnino destro con la pubblicità. Non c'era dietro una logica editoriale. Ecco, ai tempi tu avevi un vantaggio competitivo se per 30 giorni mettevi la stessa inchiesta, perché ci credeva il giornalista, ci credeva l'editore, ci credevano tutti. E per qualche anno il Washington Post ha venduto più del New York Times. Se sapete le mani di chi è oggi il Washington Post, vi mettete le mani di chi è di Jeff Bezos, per chi non sapesse, cioè l'amministratore delegato di Amazon. A un certo punto i quotidiani, proprio dopo l'inchiesta del Watergate, che è stata una specie di canto del cigno, hanno iniziato a copiare i tabloid di Marx. Cioè anche il Financial Times, anche i giornali più seri, no? Hanno cominciato a somigliare a questi, perché il modello era diventato quello dei piazzisti. Siamo nell'epoca in cui non si vende il contenuto, ma si vende la capacità di presidiare l'attenzione, spostare le eyeballs dove generano profitti. La parola che descrive meglio di tutti questo processo è infotainment. Forse perché anche noi, dentro di noi, non ci interessa più tanto essere informati, vogliamo soprattutto essere intrattenuti. Altro mestiere che significa dire: noi giornalisti sappiamo fare questa cosa meglio degli algoritmi, e poi si lamentano che le vendite crollano. Una volta lo potevi fare quando avevi il controllo di un palinsesto o del menabò del tuo giornale. Oggi che tutto questo viene fatto in automatico e in modo personalizzato, basandosi non più su dati a campione ma sui big data, quindi tutti i dati, è una battaglia persa in partenza. Ed è per questo che dico che, nonostante questa grande opportunità che avremo di internet, la frase di Pasolini che disse: non c'è una parola che un operaio pronunci che non sia voluta dall'alto, resiste anche nell'epoca di una rete aperta e paritaria, perché non la stiamo usando come potremmo. Anzi, si basa tutto non sulla paritarietà, non sulla simmetria, ma su una serie di asimmetrie. La asimmetria della consapevolezza: noi firmiamo i termini di servizio delle piattaforme senza leggere, noi non sappiamo cosa succede ai nostri dati, dall'altra parte c'è qualcuno che lo sa anche troppo cosa fare con i nostri dati. La simmetria delle scelte: internet nasce come un luogo consultabile con dei motori di ricerca, ma noi preferiamo affidarci al discovery delle timeline, e anche quando usiamo un motore di ricerca, il motore di ricerca che usiamo mette nelle prime tre pagine quello che conviene a lui, come sapete, no? E poi quest'altra cosa che da dipendente team quasi mi vergogno: quando facciamo un contratto, per noi è perfettamente normale che ci sia un giga in download e 100 mega in upload. Si dà per scontato che noi siamo, non abbiamo bisogno di questa parità. Noi vogliamo semplicemente una televisione un pochino più sofisticata, noi vogliamo una serie di nuove mappe pronte. Non ho mai visto nessuno scendere in piazza perché ha meno upload che download. Cosa ci portiamo dietro da questa chiacchierata? Così mi fermo e faccio contento lo sguardo. La produzione e la trasmissione delle idee non è mai stata esclusivamente un'industria con fine di lucro. Ricordiamocelo, perché quasi tutti i nostri comportamenti tutti i giorni sono ancora legati a una performance industrialmente misurabile. Nel tempo, la produzione e la trasmissione di idee, grazie all'alfabetizzazione e alla tecnologia, ha raggiunto in forma mediana un numero crescente di persone. I media sono diventati industria quando sono diventati oggetti di largo consumo, la conservazione dei contenuti, che all'inizio era considerata ai tempi degli amanuensi un valore, col crescere dell'industria ha iniziato a rappresentare un disvalore, perché contrasta la scarsità artificiale richiesta dal modello economico. Fino all'apparizione dei mezzi broadcast, radio, televisione, si è venduto il contenuto. A un certo punto, dall'apparizione dei mezzi broadcast in poi, è stato venduto il pubblico agli inserzionisti, l'economia dell'attenzione. Questa industria vende pubblico, non vende contenuti. Vende eyeballs, dicono gli anglosassoni, vende teste, dice Marcello Dell'Utri a Berlusconi nel documentario su Netflix, che il giovane Berlusconi, che vi consiglio di vedere perché non è male. A partire dall'apparizione di internet, puntando sulla asimmetria della consapevolezza, sono stati venduti i dati del pubblico agli inserzionisti e agli stakeholder, ritenendo indirizzabile un'ulteriore fetta di quella che era la nostra sfera privata della comunicazione. Ci siamo giocati l'ecosistema della comunicazione, svincolando le regole del profitto e del capitale. Ci sarebbero altre slide, ma mi fermo qua perché magari così c'è tempo per un paio. No, esatto, mi piacerebbe anche un paio di domande fatte. Mi accendete un attimo la luce perché sta venendo in tratto.